Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un elemento che ritorna spesso nel dibattito politico italiano, quello del complotto. È un elemento antico che da 50-60 anni è sempre presente per spiegare molte variabili della politica del nostro paese. In fondo anche nelle ultime elezioni se ne è parlato, quando Berlusconi lamentava il presunto complotto ai suoi danni per cacciarlo da Palazzo Chigi alla fine del 2011. Ma la tesi del complotto non gli ha portato particolarmente bene. E allora partiamo proprio da questa vicenda, perché essa apre il libro che adesso vi presento, di due esponenti di cultura laica e radicale: Massimo Teodori, che è stato storico, editorialista, già parlamentare del Partito Radicale, e Massimo Bordin, che per molti anni è stato il direttore di Radio Radicale. Il loro libro si intitola Complotto, come i politici ci ingannano, è pubblicato da Marsilio, 222 pagine, 14,50 €. Il complottismo, spiegano gli autori, è una malattia che corrompe la politica italiana, rendendola ancora più inaffidabile di come già gli italiani la considerano. E quindi abbiamo tutta una serie di complotti immaginari che hanno avuto però delle conseguenze drammatiche. Aggiungono i due autori, infatti, che nel dopoguerra il complottismo non è stato solo un vizio intellettuale, ha fatto da grimaldello per orientare il discorso pubblico e ha fatto sì che molti partiti sfuggissero alle proprie responsabilità proprio appellandosi ai presunti complotti, sia a destra che a sinistra. È un male comune a tutti i due poli, buono per mascherare la realtà. Berlusconi, infatti, dicono gli autori, era inadeguato a governare e quindi il ricorso al complotto serviva a spiegare i limiti della sua azione, ma anche la sinistra non ha saputo fare i conti, dicono sempre gli autori, con le ragioni ideologiche e i legami internazionali che l'hanno condizionata per tanti anni, e allora si rifugiavano nella comoda teoria del complotto. E qui nel libro troviamo citati tanti casi. Il primo appunto è quello di cui parlavo, del complotto contro Berlusconi e le rivelazioni fasulle, così vengono definite, di Alan Friedman, ma poi ce ne sono tanti altri di casi che riguardano tanti esponenti della politica italiana, vecchi e nuovi, compreso proprio Marco Pannella, definito narciso vittimista, che è stato il leader del partito per il quale Teodori è stato anche parlamentare. Allora ce lo facciamo spiegare da lui perché definisca in questo modo il suo ex leader. Buonasera a Massimo Teodori. Buonasera. Massimo Teodori, questo libro che ha scritto con Massimo Bordin affronta il tema del complotto, la sindrome del complottismo. Perché questa sindrome è così diffusa proprio soltanto in Italia? Beh, il complottismo è diffuso un po' dappertutto, ma in particolare in Italia si è molto accentuato per una ragione semplice che noi indichiamo, cioè il ricorrere al complottismo è una maniera per semplificare e adulterare la politica, e siccome la politica italiana è una politica che è sempre peggiore, sempre più cattiva, si ricorre al complotto perché è un surrogato della cattiva politica. Ecco, voi avete esaminato tanti casi in questo libro. Secondo lei qual è il caso più clamoroso, più discutibile, che appunto fa emergere questo aspetto del complottismo italiano? A parte i casi recentissimi, direi che ci sono due momenti importanti del complottismo. Il primo è quello che ha indicato in una serie di trame, di manovre, certamente molto discutibili, al limite o al di fuori della legalità, come dei complotti per sovvertire il quadro istituzionale. Mi riferisco al Piano Solo negli anni 60, al cosiddetto golpe borghese e poi al cosiddetto golpe sogno. Sono tutti e tre casi in cui i complotti sono stati immaginari, nel senso che sono state sicuramente delle trame politicamente usate, ma non si è trattato di complotti di sovversione. L'altro momento fondamentale è quello della P2, perché si è scambiato Gelli per un grande architetto per la riforma costituzionale autoritaria e se ne è seguito a parlare dopo 30 anni, mentre invece era un grande faccendiere, un grande affarista che ha combinato tutta una serie di guai e corroso le istituzioni, ma ma insieme a una parte della classe politica e della classe economica ufficiale. Ricordavo prima che lei non risparmia un leader che ha conosciuto e conosce molto bene, Marco Pannella, che definisce nel suo libro il narciso vittimista. Poi aggiunge in questo capitolo, in maniera sempre più autoreferenziale, Pannella riteneva che la realtà dovesse adeguarsi alla sua persona e non viceversa. Sì, mi pare che questa sia stata una degenerazione che ha coinvolto sempre più, ha preso sempre di più Pannella negli ultimi 10-20 anni, cioè il ritenere in realtà che i suoi progressivi insuccessi, dopo i grandi successi radicali degli anni 70 e degli anni 80 con la conquista dei diritti civili, gli insuccessi nel ventennio successivi, insuccessi nei referendum, insuccessi elettorali in generale, derivano dal fatto che c'è una specie di complotto dei mass media per non parlare del Pannella medesimo, e anche questa è una maniera per scaricare su terzi delle responsabilità che sono delle responsabilità di visione politica. Poi ci sono i personaggi new entry, diciamo così, Grillo e Casaleggio, li definisce carnefici e vittime, perché? Perché Grillo e Casaleggio, soprattutto, diciamo che un po', chiamiamolo così, tra virgolette, il teorico della compagnia, sono additati come gli elementi di un complotto che qualcuno ordirebbe ai danni dell'Italia. Addirittura un personaggio, che quello che sussurra i potenti, eccetera, indica questo, il complotto di Grillo sarebbe, le fila del complotto di Grillo sarebbero addirittura tirate dagli Stati Uniti. A loro volta sono dei carnefici, perché tutta la letteratura e tutta la chiacchiera di Grillo con sullo sfondo Casaleggio è fatto di complottismi, e ce ne sono una serie enorme, e basta sentire quegli interventi un po' ridicoli dei grillini in Parlamento, che fanno continuamente riferimento ai complotti che graverebbero sul nostro paese. Lei ha accennato adesso agli Stati Uniti, un capitolo del vostro libro dedicato proprio a questo aspetto. Lei tra l'altro è uno storico degli Stati Uniti, conosce bene quel paese e ritiene, come è scritto in questo libro, che proprio gli Stati Uniti siano considerati sempre i burattinai di questi grandi complotti che avrebbero afflitto la storia d'Italia. C'è una lunga linea, non saprei se chiamarla storica o pseudo-storica, che ritiene che c'è un collegamento che addirittura partirebbe dallo sbarco degli alleati in Sicilia nel 1943 e arriverebbe fino ad oggi, in cui tutte le varie trame, i vari episodi più o meno di illegalità, le varie manovre siano state tutte tirate da oltreoceano, e addirittura anche la stessa P2, quando la signora Anselmi, l'onorevole Anselmi, presidente della commissione d'inchiesta sulla P2, descrive il fenomeno come una piramide rovesciata in cui si conosce la piramide sottostante che è al vertice Gelli, e c'è una piramide sovrastante che risiederebbe altrove oltreoceano, non si fa altro che tentare di accreditare questa funzione degli Stati Uniti. E certo, non sono certamente io a negare che gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo rilevante nella politica, soprattutto nella politica estera e in politica militare italiana, e in parte in passato anche nella politica interna, ma tutto questo non si è trattato certamente di una lunga manovra che ha anche degli episodi molto criminosi e molto dolorosi. Massimo Bordin firma nel libro un capitolo dedicato alla trattativa Stato-mafia, la cosiddetta trattativa Stato-mafia, che è un tema che tiene banco da molti anni sui giornali. Ecco, lei che idea si è fatto di questa questione? L'idea che io mi sono fatto, ma appunto questo saggio è firmato da Bordin, che segue molto attentamente il processo di Palermo, l'idea che mi sono fatto è che questo è un altro di quei processi imbastiti su una idea preconcetta e su una tesi che si cerca di dimostrare attraverso il processo stesso, e invece di procedere come dovrebbe fare nella giustizia, si parte dai fatti e si arriva alle conclusioni, qui si parte da una tesi preconcetta che ci sia stata una trattativa tra Stato e mafia e si cerca di accreditarlo attraverso delle pezze d'appoggio. Come si può uscire da questa situazione? In particolare l'informazione, non parliamo più di giornali che contano sempre meno, ma l'informazione in generale, che contributo può dare? Purtroppo oggi la teoria del complotto corre molto sulla rete. Sì, direi che la rete, con una informazione che è fatta un'informazione molto rapida, schematica, di poche parole e pochi concetti semplificati, sta aumentando molto la diffusione della complottomania. Purtroppo qui bisognerebbe reagire, e soprattutto chi dovrebbe reagire è la politica, perché tutto questo è il sottoprodotto di una politica cattiva, cioè di una politica in cui le persone, i gruppi, i partiti che falliscono, che hanno insuccessi, cercano di addebitare ad altri, generalmente a cose misteriose, i loro fallimenti. E tutto questo diventa molto più facile con la rete, quindi il discorso è un discorso che torna alla qualità della politica. Grazie a Massimo Teodori, autore con Massimo Bordin di Complotto, come i politici ci ingannano. Buona serata. Buonasera. C'è un male però che affligge la politica italiana, questo è la luce del sole, e per molti cittadini si chiama burocrazia. E allora vi segnalo un libro di cui autore è proprio un alto burocrate, che è anche docente universitario, che si misura in un romanzo col mondo appunto che conosce bene. L'autore si chiama Alfonso Celotto e il titolo è Il dottor Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale, pubblicato da Mondadori, 240 pagine, €16,90. Il nome nel titolo. Amendola è un burocrate un po' misantropo, grigio di carattere, che non si è mai riavuto da una delusione amorosa, direttore appunto della Gazzetta Ufficiale, è impegnato in un'opera titanica e solitaria, quella di controllare parola per parola i testi vigenti delle leggi italiane a partire dall'unificazione. E che lavoro è questo? In fondo le leggi sono già pubblicate, in realtà queste leggi sono state sempre modificate, soppresse, e non esiste, scopriamo dal libro, una banca dati pubblica delle leggi vigenti. Non c'è mai la certezza assoluta del testo delle leggi. E infatti la trama del libro scorre attorno appunto alla scoperta di una legge molto importante della fine dell'Ottocento, che si scopre essere ben diversa da quella che è stata pubblicata, e questa scoperta avrebbe delle conseguenze devastanti addirittura sui rapporti tra la Repubblica e lo Stato del Vaticano. Ma poi c'è una vicenda personale che riguarda il protagonista, il dottor Amendola, che crede di ritrovare la sua vecchia fiamma attraverso la figlia, una ragazza bellissima che alla fine sarà quella che otterrà i maggiori benefici della vicenda, perché guadagnerà un sacco di soldi giocando all'otto i numeri che il dottor Amendola, smorfista per passione, le ha passato. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il nuovo titolo di un autore che ha raggiunto una fama planetaria quando scrisse il suo libro, un libro di divulgazione filosofica che, vi ricorderete, si intitolava Il mondo di Sofia, l'autore Jostein Gaarder, norvegese, che adesso ritorna con Il mondo di Anna, è pubblicato da Longanesi, 202 pagine, €14,90, tradotto da Lucia Barni. E qui Anna affronta dal remoto villaggetto norvegese nel quale vive il tema della sopravvivenza di molte specie animali e dello stesso pianeta. Poi vi segnalo due titoli che hanno al centro gli intrighi dei servizi segreti. Il primo si intitola Sotto controllo, Edward Snowden e la sorveglianza di massa, l'autore Glenn Greenwald, che è un giornalista inglese, pubblicato da Rizzoli, 376 pagine, €15, tradotto da Irene Annoni e Francesco Peri, che ricostruisce il caso del giovane informatico che lavorava per la CIA e per la NASA, che ha rivelato al mondo il ramificatissimo programma di sorveglianza universale, il più sofisticato mai realizzato. L'altro libro è quello di un autore italiano, Luigi Carletti, un giornalista, che si intitola Super Notes, è pubblicato da Mondadori, 392 pagine, €19, e affronta un caso altrettanto clamoroso ma molto meno noto. riguarda un agente dei NOX, un agente italiano, che è stato tenuto prigioniero per quasi un anno in un campo di concentramento cambogiano per una vicenda che è stata molto trascurata dai media italiani e che ha al centro un inquietante e colossale traffico di banconote falsificate che gli rivela un intreccio a livello internazionale tra servizi segreti di tutti i paesi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba e adesso, con la pompa che gli è dovuta, vi introduco un ospite importante. Presidente Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые коллеги, в сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается. Questa è la voce appunto di Vladimir Putin, un personaggio di cui si parla sempre più frequentemente in queste settimane e in questi mesi. È una testimonianza interessante sul ruolo di Putin, su quello che sta avvenendo nel suo paese, sul ruolo imperiale che vuole restituire alla Russia Putin, e il libro di Garry Kasparov, il mitico campione di scacchi che è stato campione mondiale per 15 anni e ora esponente del dissenso anti-Putin. Il libro si intitola Scacco matto a Putin, pubblicato da ISBN, 190 pagine, 16 euro, tradotto da Mario Bonaldi. Vengono qui raccolti degli interventi e degli articoli pubblicati su grandi giornali americani e internazionali, soprattutto il Wall Street Journal e il Time, nei quali Kasparov argomenta la sua opposizione a Putin indicando i rischi delle sue politiche aggressive. Sentiamo per esempio che cosa ha scritto poche settimane fa sul Washington Post dopo l'inizio della crisi ucraina e sull'illusione soprattutto che molti hanno di poter raggiungere un accordo con lo stesso Putin. Con Putin non si fanno accordi. Non c'è modo di trovare un compromesso che sia di mutuo beneficio. Putin sfrutta ogni opportunità a proprio vantaggio e sente di non avere alcun obbligo verso lo Stato di diritto o il rispetto dei diritti umani sia all'interno sia all'esterno del paese. Putin è semplicemente una causa persa e anche la Russia lo sarà fino a quando il suo presidente non sarà mandato a casa. L'Occidente ha rifiutato di riconoscere questo fatto per troppo tempo, a partire dal famigerato sguardo di George Bush dentro l'animo di Putin, fino ai 4 anni buttati al vento dall'amministrazione Obama nel tentativo di ripartire da zero con la Russia. Un'iniziativa, quest'ultima, che è servita più come opportunità per far scattare foto ufficiali, che non come punto di partenza per politiche durature. È sempre stato un grave errore trattare Putin alla stregua degli altri leader, ma adesso non esiste più alcuna scusa. Putin non farà passi indietro, né verrà cacciato, fin tanto che delle forti e credibili minacce al suo potere non creeranno una spaccatura tra i suoi consiglieri e all'interno dell'elite che lo sostengono. Abbiamo parlato della Russia e veniamo all'altra superpotenza, gli Stati Uniti. Come stanno? La prima risposta più ottimista è quella di Joseph Joffe, grande giornalista e studioso di politica internazionale, polacco di origine, direttore di Die Zeit, che ha scritto il libro Perché l'America non fallirà. Politica, economia e mezzo secolo di false profezie, pubblicato da Utrecht, 274 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Davide Panzieri. Le profezie decliniste sull'America, sugli Stati Uniti, si moltiplicano e ne vedremo tra poco una molto autorevole, ma non convincono del tutto Joffe, che è uno studioso di geopolitica molto apprezzato in tutto il mondo. Secondo lui, infatti, siamo al quinto declino annunciato degli Stati Uniti. Il primo si sarebbe manifestato già subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, a partire dagli anni 50. Poi ogni 10 anni circa, ci spiega l'autore, vi si manifesterebbe l'espressione di una nuova forma di declino. Insomma, l'autore parla di un carattere ciclico di questo fenomeno, un declino che non si dispiega nel corso dei secoli come nel caso di Roma, ma funziona come un dramma di repertorio da replicare stagione dopo stagione. E allora si chiede che cosa scatena l'ondata e perché questa svanisce, e nel libro troviamo appunto la risposta a questo quesito facendo la storia dei declini americani, quelli che si sono manifestati per esempio con la profezia che presto il Giappone avrebbe superato gli Stati Uniti, esaminando le ragioni di questo catastrofismo, dovute soprattutto alla forte dicotomia tra chi è entusiasta degli Stati Uniti e chi invece è fortemente ostile, e poi argomentando da altri punti di vista, Per esempio, l'autore scrive che i pessimisti non devono mai provare le loro profezie mostrando i dati, indicando le debolezze che egli ci segnala del capitalismo di Stato cinese, che appunto sarebbe la grande superpotenza destinata a prendere il posto degli Stati Uniti, ma che appunto ha al suo interno molti punti deboli. Joffe prevede anche che il vantaggio americano sarà duraturo e che non sarà basato soltanto sulla grandezza economica. Contano, dice, la cultura, le istituzioni e soprattutto la libertà. Sentiamo per esempio cosa ci dice in questo passaggio. A cavarsela meglio, per ragioni insite nel loro ordinamento interno, sono gli imperi liberali, o se si vuole, gli imperi liberali che nascono in un'isola come la Gran Bretagna, o meglio ancora, in un'isola molto vasta, grande quanto un continente come gli Stati Uniti. L'insularità significa sicurezza, e questa alimenta la libertà. Sono queste le radici di una rete di governo globale meno vulnerabile e più economica dei metodi impiegati dagli imperi dinastici o totalitari. La sicurezza, o in altri termini la felice posizione geografica, segna la differenza cruciale tra le potenze insulari e le altre grandi della storia. Mancando nel mondo anglo-americano il pericolo di vita che ha tormentato l'Europa continentale e la Cina fino alla metà del XX secolo, la libertà vi ha trovato un clima molto più favorevole. Ma la religione civile della libertà, radicata nel protestantesimo dissidente, non ha impedito loro di edificare imperi globali. Quell'inglese, estesosi letteralmente in tutto il mondo fino a diventare il più grande della storia, era materiale. Quello americano, con o senza le Filippine, essenzialmente virtuale. Entrambe le potenze facevano sul serio a livello diplomatico e militare, dando il peggio di sé e non cessando mai di combattere. Entrambe si sono impegnate in guerre di aggressione ed espansione, possedevano e commerciavano schiavi, conquistavano continenti e nel processo uccidevano migliaia di nativi. Eppure loro continuava a essere un imperialismo liberale, sicuramente a livello di percezione di sé, ma anche in fatto di azioni. In quanto sistemi liberali di governo, infatti, perseguivano interessi egoistici in modo che favorivano anche altri paesi. Si trattava di buonsenso o di semplice fortuna? Sia come sia, questa coincidenza segna la differenza cruciale tra imperi liberali e tradizionali. E qui l'autore conclude dicendo che il presidente Obama sta imboccando una strada di decisa reticenza, come la chiama lui, che ne riduce il ruolo nel mondo. Ma il declino non si sceglie, si subisce, e scrive l'autore. Gli Stati Uniti non sono in queste condizioni. Il mondo ha bisogno di un custode, anche per evitare che i giganti liberali, come li chiama, cioè la Cina e la Russia, dilaghino. Decisamente declinista, fin dal titolo, invece, il libro di Sergio Romano, Il declino dell'impero americano, pubblicato da Longanesi, 124 pagine, €14,90. Secondo Romano, la crisi dell'impero americano è nata a Kabul e a Baghdad, ma ha avuto poi conferma in tante espressioni di dissenso e di malumore da parte di tanti alleati degli stessi Stati Uniti. Quindi, mentre per Joffe Obama sembra subire passivamente il nuovo isolazionismo americano, per Romano Obama interpreta responsabilmente una politica che egli chiama di diverse dimensioni internazionali. E qui troviamo un racconto molto scorrevole degli ultimi decenni della politica americana, della crisi che ha visto gli Stati Uniti protagonisti, fino a quella finanziaria che forse l'ha fatta più barcollare. Romano esamina le tappe di questa nuova politica americana, spesso una vera e propria ritirata, per esempio in Pakistan, in Turchia, in Medio Oriente, in Arabia Saudita, in Giappone, in Sud America, concludendo da dove siamo partiti, cioè dalla crisi ucraina, che, conclude Romano, finirà col dimostrare che gli Stati Uniti di Obama non sono quelli di Kennedy e dei suoi successori. Insomma, il declino sembra evidente, scrive Romano, e ciò richiama altri soggetti, a partire naturalmente dall'Unione Europea, alle proprie responsabilità. Ma gli americani sono ancora leader nella cultura e nella letteratura. Allora vi segnalo il libro Guida alla letteratura degli Stati Uniti, percorsi e protagonisti 1945-2014, curato da Cinzia Scarpino e Cinzia Schiavini e Sostene Zangari. È pubblicato da Odoi a 554 pagine, €24. Per gli appassionati della letteratura americana, un libro molto utile perché in ordine alfabetico troviamo le schede sui maggiori scrittori americani, ne troviamo qua 39, scrittori del dopoguerra, con immagini, bibliografia e consigli di lettura. Ed è naturalmente qui una selezione che possiamo definire coraggiosa, perché vengono esclusi molti nomi noti e che quindi rischierà di far discutere. Troviamo anche un appendice sulla musica, la poesia e il teatro americano. E a questo punto... Il confettino. A proposito di letteratura americana, ma anche di cibo, visto che ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, vi segnalo uno dei maggiori successi letterari americani per i ragazzi, Come mangiare vermi fritti di Thomas Rockwell. È pubblicato da Bianco e Nero, illustrato da Umberto Mischi, 110 pagine, euro 12,50. È illustrato da Nadia Brusin. Questo è un libro del 1973 che ha avuto negli Stati Uniti un enorme successo grazie anche alla serializzazione televisiva alla quale ha dato origine. Il titolo può apparire leggermente disgustoso, come la sfida dalla quale prende avvio il libro, ma il contenuto vi divertirà, padri e genitori e ragazzi. E a proposito di letteratura e di Russia, vi segnalo invece di Erika Klein, esperta di letteratura russa, il libro Ritratti di Russia al femminile, leggenda, letteratura, cronaca, pubblicato da Pendragon, 206 pagine, 18 euro, dove troviamo una serie di figure femminili che ricostruiscono una storia della Russia e della sua letteratura, da Baba Yaga, la famosa strega, ad Anna Politkovskaya, definita qui come la coscienza morale della Russia di oggi. Impressionanti sono proprio le righe della giornalista uccisa nel 2006 su Putin e la sua vocazione autoritaria di cui ci ha parlato Kasparov. Scrive infatti la Politkovskaya che Putin è furbo, abile, ha un ricco bagaglio di esperienza maturata nel KGB, è difficile coglierlo in flagrante, accusarlo di razzismo. Anche sotto il regime sovietico la Costituzione era buona, poi la pratica veniva dettata dall'autorità senza alcun rapporto con la legislazione. Non abbiamo cambiato bandiera mettendoci sotto quella di Putin, siamo solo tornati a casa. E con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima. Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Gli Indispensabili, 20 saggi universali per arricchire il tuo pensiero. Da martedì in edicola con Il Sole 24 Ore.